Oh, roba seria. L'hai fatto il pezzo per culo, te. Sì, l'ho fatto. L'hai fatto. L'ho fatto. Così. Adesso? Adesso. Anch'io dovevo fare un pezzo, quindi. Poi non ci siamo più sentiti. Ho il pezzo, la strofa, come facciamo? Chiamalo, Didio. Dai. Poi ti faccio sapere. Però aspetta che adesso mi sto chiamando. È bene. Vedi, Gonzo si è fatto un pezzo per culo. Oh, Gonzo, hai fatto un pezzo per mixtape culo. Hai fatto un pezzo per mixtape culo, fra. Perché Body non l'ha fatto e non sapevo come fare. Oh, Gonzales. Bella. Tu l'hai fatto il pezzo per culo. Yeah, grande. Dai, va bene. Ok, va buon. Ciao. Bene, l'ha fatto anche lui il pezzo per culo. Beh. Sono l'unico. Sei l'unico. Sai cosa facciamo? Esatto. Vado da Bino, entro con la forza. Accendiamo tutto e registriamo il freestyle. Dai, io me ne sto. Oh no. Vieni anche te, anzi, ci devi portare tu. Dobbiamo stare attenti a non svegliare la weed. Vabbè, dai, facciamo sbarionare un po' meno. Bananne, raga. Ricchetta, uva. Bomba, clamenta. Cia, cia, cia, cia. Scuggia, scuggia. E non te scorda. Gira la nonna, fai una giravolta. Gira. Bombo club, bombo club. Mixtape. Culo. Culo. Culo. Culo. Culo. Culo.